Radio 24 Reportage. Il Made in Italy delle tecnologie alimentari. Tra sfide, innovazione e opportunità. Di Adriano Palazzolo. Sono più di 1.200.000.000 i consumatori al mondo che ogni anno comprano un prodotto made in Italy, mentre prodotti ad alto contenuto di servizio come sughi pronti, condimenti freschi e surgelati si affermano sempre di più nelle abitudini quotidiane, rappresentando oggi il 25% del giro d'affari dell'agroalimentare. Con un fatturato stimato per il 2016 di 134 miliardi di euro, di cui quasi 29 derivanti dall'export, l'industria alimentare è il secondo comparto manifatturiero italiano. A fotografare il settore delle tecnologie alimentari con dati e tendenze è il Centro Studi SACE, il polo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dell'internazionalizzazione delle aziende. Abbiamo sentito Stefano Bellucci, responsabile area Centro Nord. Le macchine per il food in Italia rappresentano un'eccellenza nel comparto più ampio della meccanica industriale. Nel 2015 il comparto delle macchine per il food ha avuto un valore di circa 3 miliardi e mezzo di euro a fronte di un valore complessivo di circa 5 miliardi e 2, quindi da qui capiamo il peso strategico. Il gruppo SACE giudica questo comparto estremamente importante. Noi vediamo che tutto il settore dei macchinari e degli impianti che per la trasformazione nella filiera agroalimentare italiana, con specifico riferimento al comparto vegetale, quindi tutta frutta, verdura, a Parma in particolare il comparto del pomodoro, ma senza dimenticare tutti i processi di trasformazione della filiera lattiero-casearia e della carne, poli molto importanti e strategici qui nella regione dell'Emilia-Romagna. Per il 2016 siamo molto ottimisti e prevediamo un aumento ulteriore di circa il 2% rispetto al 2015, con un'ulteriore crescita di 400 milioni nel successivo biennio, con il rafforzamento della focalizzazione sull'export in aree strategiche quali Stati Uniti, Cina, India e Messico. L'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale per le imprese che devono soddisfare le nuove esigenze del mercato, tra ecosostenibilità, riduzione dei costi, riutilizzo dei materiali di scarto e digitalizzazione. Per questo motivo sempre più spazio trovano le start-up, pronte ad innovare e trasformare il settore. Gianluca Carenzo, direttore del Parco Tecnologico di Lodi, spiega i nuovi trend dell'innovazione per le start-up dell'industria delle tecnologie alimentari. Noi abbiamo un settore macchinari e impianti, ad esempio, per il settore alimentare italiano, che è stato fortissimo nel corso degli anni e che adesso necessita di recuperare competitività, aggiungendo sicuramente dei tool nuovi, che sono quelli dell'Industria 4.0, per cui sensoristica, robotica, automazione anche all'interno dei processi industriali, quindi sicuramente start-up che parlano di questo sono già avvantaggiate. Processi biologici, l'Italia era il primo moltissimi anni fa produttore di genetica per quanto riguardava ad esempio il settore delle orticole, il settore appunto dei frutticoli. Oggi abbiamo perso questa competitività e dobbiamo riguadagnarla, quindi sicuramente abbiamo degli strumenti anche ancora all'interno, diciamo, dei laboratori di ricerca, dei centri di ricerca e università che potrebbero essere utilizzabili da start-up per favorire lo sviluppo di nuovi business poi collegabili al settore dell'industria italiana. Proprio di start-up si è parlato a Cibustec, la fiera delle tecnologie alimentari che si è svolta a Parma a fine ottobre. In quell'occasione, diverse realtà del settore si sono incontrate per fare il punto sul miglioramento continuo del mondo del food processing. Tra gli argomenti, il riutilizzo dei materiali di scarto, di cui si occupa Mycoplast, una start-up che lavora con i funghi. Ce ne parla il CEO e direttore operativo Stefano Babbini. Quello che facciamo è prendiamo degli scarti di lavorazione delle filiere agroindustriali, che possono essere sono delle fibre, basicamente, di diverse dimensioni. All'interno vi coltiviamo dei funghi, ma non il fungo inteso come il frutto, quello conosciuto, bensì la radice. Quando si va nel bosco si raccoglie il fungo, si vede che nel suolo rimane un filamento bianco. Ecco, quello è il nostro il nostro biopolimero. Facendo questo è possibile ottenere questi materiali compositi, che non sono altro che funghi che colonizzano questi substrati, portarli a una certa maturità, dopodiché attraverso delle post lavorazioni che basate su asciugature ma anche compressioni è possibile attribuire delle caratteristiche a questi materiali. A livello pratico il risultato possono essere imballaggi di tipo rigido, possono essere pannelli. In questo momento stiamo lavorando moltissimo sul settore della biopannellistica destinata alla biodesign e alla bioarchitettura, perché è un settore in forte crescita, devo dire soprattutto in Nord Europa, ed è anche ad alto valore aggiunto, oppure a dei supporti per l'orticoltura nel caso vogliamo creare dei prodotti che siano biodegradabili. Stefano Lopriore invece è il CEO di Iris, che sviluppa piattaforme portatili per il DNA, utili per le analisi dirette sul campo. Si tratta di strumenti miniaturizzati che riproducono un vero e proprio laboratorio, con applicazioni anche nel settore agroalimentare. Nell'agroalimentare stiamo lavorando principalmente in due settori. Il primo è quello del fitosanitario, ovvero delle malattie delle piante. Le piante poverine, come noi, sono soggette a una serie di infezioni da virus, da batteri, che possono essere anche molto gravi. Il caso della xylella è quello mediaticamente più noto, ma i coltivatori sanno che ci sono una serie di patogeni molto pericolosi per le loro coltivazioni, col potenziale di distruggerle completamente in certi casi. La tecnologia Iris permette di effettuare un controllo molto più capillare sul territorio, con dei tempi di risposta molto più veloci e quindi potenzialmente di contenere dei fronti di infezione in maniera molto più rapida e più efficace. L'altra applicazione per la nostra tecnologia è quello delle supply chain, ovvero laddove c'è un sistema per cui vengono trasportati quantitativi di merce, grano, frutta, verdure, semilavorati di vario tipo, integrati in un sistema produttivo, avere la possibilità di testare la qualità e la possibile presenza di contaminanti all'interno del sistema produttivo, senza dover prendere il campione e mandarlo in laboratorio e attendere a volte giorni per il risultato, sveltisce le operazioni produttive e di distribuzione con dei risparmi che sono abbastanza ovvi. Ma oltre che di nuove idee sviluppate dalle start-up, la ricerca nel campo delle tecnologie alimentari porta anche a nuove tecniche di conservazione per prodotti che troviamo già nei supermercati. Ci aiuta a capire meglio di cosa si tratta Andrea Brutti, tecnologo alimentare della Stazione Sperimentale di Parma. Esistono delle nuove tecnologie di pastorizzazione o sterilizzazione che utilizzano delle tecnologie alternative. Se pensiamo ad esempio all'applicazione del trattamento ad alta pressione, che viene anche definito HPP, è una tecnica di pastorizzazione che invece che usare la temperatura usa la pressione. Quindi questo comporta a un prodotto che ha sicuramente delle caratteristiche sia sensoriali che nutrizionali molto più vicine a un prodotto crudo, a un prodotto non cotto, ma avendo comunque la sicurezza microbiologica e sanitaria di un'estensione della sua shelf life. Il riscaldamento omico è una tecnologia alternativa ai trattamenti termici tradizionali, è sempre un trattamento termico ma utilizza un'elettrotecnologia, quindi è la corrente elettrica che mi scalda direttamente il mio prodotto. Questo comporta sempre ad un trattamento termico ma con dei tempi molto più veloci, quindi è possibile raggiungere la temperatura di sterilizzazione e di pastorizzazione in tempi molto minori, come avviene ad esempio nelle microonde o nelle radiofrequenze. Questo sempre a beneficio delle qualità finali del nostro prodotto. È possibile oggi già trovare nella grande distribuzione dei prodotti che possono essere o dei succhi di frutta tipo degli smoothie, oppure appunto vi dicevo dei prodotti ittici confezionati che hanno riportato questa dicitura: trattato in alta pressione oppure pastorizzato attraverso il trattamento HPP, e questo contraddistingue l'applicazione di questa nuova tecnologia che permette di poter avere un alimento sicuramente molto più vicino a un alimento crudo. Affinché startup e aziende possano progredire nell'innovazione tecnologica, però serve fare investimenti. Ma quali sono gli strumenti finanziari a disposizione di chi vuole restare al passo con le nuove tecnologie e raggiungere gli standard dell'industria 4.0? Lo abbiamo chiesto a Fiorenzo Bellelli, presidente di Warren Group, società di consulenza specializzata in finanziamenti europei, nazionali e regionali per lo sviluppo delle imprese. Il primo, quello forse più noto a tutti quanti, è l'iperammortamento per chi investe in tecnologie, diciamo, abilitanti, dove per l'acquisto di questi beni uno può avere un ammortamento di questi beni fino al 250%. Poi vi sono una serie di altri incentivi, quali l'iperammortamento per l'adozione di tutte quelle tecnologie digitali per fare dialogare fra di loro le macchine, le persone e le cose. E in più sono a disposizione dei crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, affinché le imprese che debbono comunque mettere a punto nuovi prodotti, nuovi servizi proprio per Industria 4.0 possono avere un credito d'imposta molto importante, che può arrivare fino al 50% della spesa per la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di queste nuove tecnologie. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.